in primo piano. Buongiorno, buon martedì, buon 25 aprile da Giulia Crivelli. Oggi, sapete, è una festa nazionale, era il 25 aprile del 1945. Lo dico perché stamattina riflettevo e pensavo, chissà se mia nipote, per esempio, che ha solo 13 anni, sa davvero che cosa successe quel 25 aprile. Diamo tantissime cose per scontato. Oggi ci sono molti articoli sulle celebrazioni che ci saranno. Comunque, insomma, il 25 aprile del 1945 viene chiamato Festa della Liberazione, il 25 aprile, perché in quella data, appunto, nel 1945 si proclamò l'insurrezione in tutti i territori dell'Italia. Poi ci bisogna ovviamente aspettare ancora qualche giorno perché la liberazione davvero avvenisse, però quella è la data a cui facciamo riferimento. Quindi festa nazionale oggi, poi vedremo, appunto, perché ci sono alcune polemiche soprattutto sui cortei che si terranno a Roma. Ma cominciamo dal Sole 24 Ore, che apre il titolo principale sulle reazioni dei mercati, di cui avete sentito parlare ieri nei GR, Focus Economia con Deborah Rosciani ieri sera. La sintesi è che le borse hanno reagito molto bene. In particolare sono andati molto bene i titoli bancari, e sappiamo che sul listino di italiano, dove le banche hanno un peso molto forte, questo ha avuto un effetto ancora maggiore, tanto che Milano, la borsa di Milano, è stata la migliore di ieri, ha segnato un rialzo del 4,77, ancora meglio di Parigi, che è cresciuta del 4,12. Quindi il titolo, i mercati puntano su Macron. Poi in prima pagina anche il referendum di Alitalia, si parlava di un no al 55%, in realtà è quasi al 70, e oggi c'è un consiglio di amministrazione straordinario. Moltissimi commenti anche in questo caso. Vi segnalo in particolare sul Sole l'analisi di Mario Sebastiani: un copione prevedibile per una storia già vista. Poi l'ok tanto atteso alla cosiddetta manovrina, cioè la correzione della manovra fiscale, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e quindi dopo la firma del capo dello Stato adesso la manovra è finalmente stata approvata. Quindi vedremo poi, naturalmente, a pagina 6 del Sole 24 Ore trovate tutti i dettagli. Molti sapevamo già alcune cose, tipo il ritocco delle accise, ma nel dettaglio, appunto, potete leggere tutto a pagina 6. Vi segnalo l'analisi di Attilio Geroni, che è il caporedattore della nostra redazione Esteri, la trovate a pagina 2 sul voto in Francia, e si intitola "La guerra contro l'élite riparte dal nord". Attilio poi nelle settimane scorse era anche stato proprio in Francia a cercare di sondare un po', con quello sguardo che si può avere dall'esterno, sondare gli umori soprattutto nel nord del paese, quello che poi in effetti il nord-est del paese è quasi tutto andato al Front National di Marine Le Pen. Vi leggo la prima parte di questa analisi che trovate a pagina 2, oltre naturalmente a tutta la cronaca di Marco Mussanè e all'analisi di Marco Mussanè, che si intitola "Il nuovo bipolarismo sociale della Francia". "Più che una campagna elettorale sarà una guerra", scrive Attilio Geroni, riferendosi alle meno di due settimane che separano la Francia dal secondo turno delle elezioni presidenziali. Marine Le Pen ha aperto le ostilità domenica sera dal suo feudo nordista di Enin Beaumont, la Francia che vota il Front National perché la disoccupazione è alta, la globalizzazione è una minaccia, la grande distribuzione schiaccia il commercio al dettaglio e i partiti tradizionali sono corrotti. E vi leggo l'ultima parte. Marine è appunto la voce di questa parte di francesi che si sente indebolita e ignorata, quella che si fa carico di una rabbia soffocata dall'ospitalità, dalla gentilezza dei modi e forse dalla stanchezza e dall'isolamento, gente che ha trovato ascolto nel Front National. Proprio ieri, appunto, parlavamo con Attilio durante la riunione, diceva che abbiamo forse anche, che inevitabilmente stando qui e non in Francia, un'idea un po' sbagliata degli elettori del Front National. Quelli che lui ha incontrato sono appunto innanzitutto persone molto cordiali, non il tipo di francese che magari sempre, secondo lo stereotipo, c'è a Parigi, un pochino più scostante. Quindi è proprio, bisognerebbe davvero fare uno sforzo per capire questo balzo nei consensi del Front National. che non è appunto, sì, è gente delusa, ma non necessariamente arrabbiata. Il Corriere della Sera ha il titolo principale dedicato al piano bocciato, virgola, caos all'Italia. Però un altro titolo importante subito sotto la testata del Corriere, dedicato alla Francia, i mercati già festeggiano. Questo già è perché appunto sappiamo poi quanto volatili siano i mercati, quindi abbiamo visto la reazione di ieri. Vediamo quella di oggi e soprattutto vediamo cosa succederà nei prossimi giorni e poi mano a mano che i sondaggisti più coraggiosi faranno delle previsioni sul voto al secondo turno. La fotonotizia è dedicata a Gabriele Del Grande. Ieri proprio sul Corriere avevamo letto il titolo di un articolo che diceva la liberazione si allontana, poi appena finita la nostra rassegna stampa siamo stati smentiti dalla cronaca, perché è arrivata la notizia appunto che Gabriele Del Grande sarebbe arrivato in Italia all'aeroporto di Bologna con un volo, dove è stato accolto poi a Bologna dalla sua compagna e dal ministro degli esteri Angelino Alfano. Vi segnalo anche, richiamato in prima pagina, non tutti i giornali lo fanno, quello che è trapelato sul colloquio tra il premier Gentiloni, che è stato in visita negli Stati Uniti, ha avuto un incontro con il presidente Donald Trump, e il titolo del Corriere della Sera è Trump, due punti, Roma pagherà di più. Il riferimento è alla richiesta che ha fatto Trump che il nostro paese aumenti il contributo che dà alla NATO. Il Messaggero ha il titolo forse in assoluto che occupa più spazio tra quelli dei quotidiani. La maggior parte dei dipendenti dell'Alitalia lavorano a Roma. Il titolo vince il no all'Italia in vendita. E qui vi segnalo il commento di Oscar Giannino, che non ha bisogno di alcuna presentazione, e si intitola Una Caporetto sindacale senza appello. In prima pagina anche quello che viene definito l'effetto Macron che spinge le borse, richiama un'intervista di Mario Aiello a Romano Prodi, che trovate poi all'interno del Messaggero, che dice: per vincere Macron deve restare coerente. Abbiamo visto ieri come una delle molte definizioni che si danno di Macron è europeista. Scusatemi, ma l'intervista non è di Mario Aiello, che invece intervista che invece parla del 25 aprile. Dando un'occhiata veloce ho nel mio cervello qualcosa ha scambiato appunto i nomi dei giornalisti. Mario Aiello poi lo trovate a pagina 10, che parla del 25 aprile. Un'altra firma che non ha bisogno di presentazioni, e naturalmente soprattutto per gli ascoltatori di Radio 24, Maria Latella, nella sua analisi del voto francese si concentra in particolare su quello che viene definito il fattore rosa, perché Le Pen non sfonda fra le elettrici. Infatti, da una prima analisi emerge che appunto Marine Le Pen, che ha avuto questi grandissimi consensi, è staccata di 2,5 punti circa dal suo avversario Macron, però non come magari qualcuno si aspettava, non ha poi raccolto il voto di molte donne. Sono divisi, come in realtà a me sembra naturale, non si capisce perché una donna debba votare una donna o viceversa. Poi l'abbiamo visto anche in America con Hillary Clinton, non ha avuto il voto di tutte le donne, anzi. La Repubblica: all'Italia il voto atterra la compagnia, il voto naturalmente a quello del referendum dove i lavoratori erano, i 12.500 lavoratori dell'Alitalia erano stati chiamati a semplicemente mettere una crocetta sul sì o sul no di questo preaccordo che era stato preparato dai sindacati e dai vertici della compagnia. Qui il commento è di Massimo Giannini, un pasticciaccio tutto italiano. Ancora sulla coppia Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux, che sapete hanno 24 anni di differenza di età, cioè la moglie è di 24 anni più giovane, di questo si continua a parlare, e Natalia Aspesi, firma storica della Repubblica, firma il suo commento, richiamato in prima pagina, quel bacio che sfida i pregiudizi sull'età. E poi non poteva mancare, in effetti dovevamo aspettarcelo, la replica di Roberto Saviano, che è già attaccato da Di Maio, o meglio, Di Maio aveva preso spunto dal rapporto Frontex di cui abbiamo parlato anche ieri, dove in realtà non si diceva che le ONG sono necessariamente complici o in combutta, questo poi è il titolo usato da Di Maio, nel rapporto Frontex queste parole non ci sono, con i trafficanti di uomini, in particolare quelli libici. Di Maio ha chiamato le navi delle ONG addirittura dei taxi, è seguita polemica, Roberto Saviano lo ha attaccato, Di Maio ha contrattaccato, sapete che ieri c'è stato anche l'intervento della CEI contro le parole di Di Maio e adesso naturalmente Roberto Saviano una pagina intera per ribadire la sua posizione richiamata in prima pagina, poi trovate tutto a pagina 17, perché difendo le ONG che salvano i migranti. La stampa all'Italia shock, no al salvataggio, e qui il commento è di Roberto di Mario De Aglio, economista, l'ostacolo più alto per Gentiloni. Secondo De Aglio questa è un po' una sconfitta di Gentiloni che aveva naturalmente caldeggiato l'accordo si era anche svolto sotto un po' l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico e del governo, che comunque sperava in un sì al referendum. E Mario De Aglio dice: questa vicenda ricorda anche, fa un po' ricorda quella di Almaviva, la grande società di call center, anche lì finita malamente e con una trattativa sindacale altrettanto malamente finita. E dice appunto: forse questo atteggiamento di Gentiloni di calma, di fin troppa calma, di moral suasion è il secondo caso eclatante di questioni che riguardano vertenze sindacali e salvataggi di aziende dove questo approccio appunto non ha funzionato. Il caso è Gabriele Del Grande, ogni giorno dicevano ti liberiamo, perché Gabriele Del Grande naturalmente ha cominciato subito appena è atterrato, ha rilasciato molte dichiarazioni, interviste e alcuni giornali le riprendono. L'Unità all'Italia commissariata, i foto editor dell'Unità sono riusciti a trovare una foto effettivamente molto significativa, c'è un aereo in fase di decollo e però sulla sinistra della foto c'è un cartello stop. Il titolo però, quindi questa è sopra la foto, campeggia il titolo all'Italia commissariata, perché in realtà non è ancora detto che vada proprio così. Si ipotizzava già alla vigilia, già ieri, prima che chiudessero le urne, che appunto se avesse vinto il no, la fase successiva sarebbe stata un commissario. Anche perché questo aveva detto anche il premier Gentiloni e il ministro delle infrastrutture Del Rio aveva detto non esiste la possibilità di una nazionalizzazione, però non oggi dicevamo c'è un CDA straordinario, dopodiché vedremo, c'è anche l'ipotesi della liquidazione. Il titolo principale però, i vescovi a Di Maio, vergognoso. La CEI, cioè appunto l'organizzazione che riunisce i vescovi italiani, sulle accuse del vicepresidente della Camera alle ONG che salvano i migranti, è un tema serio, superficialità allucinante. Il manifesto, né in terra né in cielo, la foto è quella di un aereo all'Italia, questa volta non in fase di decollo ma su una pista di un aeroporto, valanga di no all'accordo sui tagli, votando in massa, infatti l'affluenza è stata del 90%, i lavoratori all'Italia hanno chiesto un diverso piano di rilancio. Libero, dittatura Europa, l'Italia prostrata, questo l'occhiello, e poi malgrado le tante promesse il governo della manovra mette nero su bianco l'aumento dell'IVA che l'Unione Europea pretende da noi, quindi il riferimento è all'approvazione della cosiddetta manovrina che abbiamo visto anche sul Sole. Per paura di finire come Berlusconi, i nostri politici si sono ormai sottomessi alla Merkel. E se ieri c'era una parolaccia, non so se su Libero o il giornale, oggi il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri, che è il direttore di Libero, è: i francesi sono più scemi di noi. E vi leggo le prime righe: oggi è un giorno felice, siamo di buon umore avendo scoperto che i francesi sono più fessi di noi. Sono andati a votare, esercizio che noi siamo disabituati a fare per mancanza di eleggibili, e hanno premiato un tale di nome Macron. Vabbè, poi trovate tutto a pagina 7. Anche Renato Farina si esercita sulle elezioni francesi. Questo l'attacco. Stiamo con Spartaco Le Pen. Ci piace la rivolta degli schiavi. Viva Marine d'Arc! Punto esclamativo. Dovrebbe essere la nostra stessa lotta, uniti contro la dittatura dell'Europa, eliminando le stupide divisioni politiche nel centrodestra, ma anche più in là. Utopia? Purtroppo. Vediamo infatti che quasi tutti da noi danno credito a Emmanuel Macron, anche in Forza Italia, oltre a Renzi e Gentiloni. Dicono che vuol cambiare l'Europa, sistemarla come si deve, farla crescere riorganizzandola. Ah sì? Un banchiere di Rothschild, l'uomo il cui padre spirituale è Jacques Attali, il cui nome non a caso somiglia ad Attila. Siamo arrivati a questo, che i nomi delle persone indicano il loro destino. Vabbè. Vi segnalo anche, invece, molto critico, ma con degli spunti, secondo me, di riflessione, sui quali del resto si era anche esercitato il direttore Vittorio Feltri nei giorni scorsi, ma ripeto, secondo me vale la pena di riflettere su questo. Un lungo articolo di Filippo Facci, che poi trovate a pagina 13. La Turchia ci ridà del grande, abbiamo aiutato un ragazzo, non certo salvato un eroe. E vi leggo le prime righe. Non abbiamo salvato il soldato Ryan, ma neanche un cretinetti che era andato in Turchia a fare l'eroe. Le vie di mezzo esistono, talvolta sono pure ordinarie e banali, tranne per chi le ha vissute. E appunto c'è questo invito, l'ha fatto la CEI a Di Maio a non essere superficiale, credo che sia un invito che vale sempre, comunque, dovunque, per chiunque, di riflettere appunto su quello che è successo a Gabriele Del Grande, che lo ricordo ancora una volta. È stato arrestato e poi sì, trattenuto per 2 settimane, però è stato arrestato perché si trovava in un'area della Turchia dove è vietato andare. Il Fatto Quotidiano, Armi, Italia Record, è un titolo ancora diverso che si riferisce ai dati sugli investimenti dell'Italia in armi. Il nostro paese, spiega il Fatto, ha investito nel 2016 25 miliardi e svetta nella classifica redatta dall'Istituto SIPRI di Stoccolma davanti alla Russia, che ha aumentato la sua spesa del 5,9%, la Cina il 5,4%, perché appunto noi le cifre complessive sono diverse, però il nostro aumento è stato il più grande, il 10%. Un riferimento anche alla polemica sul comportamento delle ONG nel Mediterraneo, i migranti, le ONG taxi e il tradimento dei paesi che stanno lì a guardare. Ci fermiamo però un attimo per una breve pausa, ci ritroviamo tra pochissimo. In primo piano. Ancora buongiorno e buon martedì e buon 25 aprile, festa della liberazione, da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Vi segnalo la prima pagina del Foglio con due lunghi articoli, uno del direttore Claudio Cerasa e uno del fondatore Giuliano Ferrara, entrambi dedicati alle elezioni in Francia. Quello di Cerasa si intitola Make Europe Great Again, naturalmente il riferimento è allo slogan elettorale di Donald Trump che è Make USA Great Again. E il Partito della Nazione, si legge nel sommario, forse funziona solo in Francia, ma il Partito della Ragione è forte, può salvare anche l'Italia. E speriamo che in generale il Partito della Ragione, cioè che abbiamo detto prima, bando alla superficialità su qualsiasi argomento, ecco, speriamo che anche in Italia prevalga appunto la ragione sulla superficialità e gli slogan. E Giuliano Ferrari invece intitola il suo articolo Macron, iconografia di una ciambella con il buco. La cavalcata del patriota europeista è una grande notizia, ma la sua ilarizzazione, cioè il fatto che diventi come Hillary, seppure improbabile, è ancora possibile. Avvenire, Parigi sfida sull'Unione Europea e scrive Avvenire, è scattato il lungo ballottaggio. Infatti, appunto, mancano 2 settimane al secondo turno. Poi un riferimento, due articoli sulla questione delle ONG, uno l'opinione non tanto della CEI quanto di Migrantes, che è una delle ONG, che dice, ha spiegato ieri contro chi salva una polemica vergognosa. E poi l'editoriale del direttore dell'Avvenire, Marco Tarquinio, Basta fuoco sulle ONG. E la fotonotizia però è dedicata a due grandi sacerdoti, Don Primo Mazzolari, scomparso nel 1959, e Lorenzo Milani, Don Lorenzo Milani, scomparso nel 1967. Si è molto parlato di lui proprio perché ricorrono i 50 anni dalla morte. Mazzolari e Milani, uniti da Francesco, perché questo titolo? Perché il 20 giugno Papa Francesco sarà sia a Bozzolo sia a Barbiana, il paese del Mantovano, del quale Don Primo Mazzolari fu parroco per quasi 30 anni e poi fu avamposto della diocesi di Firenze, dove Don Lorenzo Milani svolse il suo apostolato di educatore e sacerdote. Il giornale "I piloti kamikaze fanno saltare all'Italia", il riferimento è al fatto che pare che soprattutto il personale di volo, cioè piloti e hostess e steward, abbiano votato no all'accordo, o comunque la maggioranza di loro, mentre il personale di terra avrebbe detto di sì all'accordo. Abbiamo un altro esercizio di, come potremmo dire, di francesismi, visto che parliamo tanto di Francia. Nel editoriale di Alessandro Sallusti, il titolo: "Renzi come Macron, mancano le palle, puntini puntini". Vi leggo la prima parte. Il giorno seguente la vittoria di Trump alle presidenziali americane in Italia erano spuntati una serie di emuli all'insaputa dell'originale. Lo stesso è accaduto ieri con Macron. Da Renzi a Grillo, Macron sono io, perché Macron è giovane di sinistra-centro, perché è l'antipartito. Parliamo di Renzi. Non è Macron, perché a differenza del candidato francese non ha mai lavorato un giorno in vita sua. E qui torniamo, scusate, all'antica polemica che chi fa politica non lavora, perché se la politica è fatta bene è un lavoro, certo deve essere fatta in modo onesto, però perché bisogna per forza definire uno che fa politica uno che non lavora? E vabbè, comunque questa è l'opinione di Alessandro Sallusti. Allora, non è, a differenza del candidato del presidente francese, non ha mai lavorato, perché di conseguenza non è economicamente indipendente, deve in qualche modo far mantenere a noi la sua corte, perché un partito non l'ha fondato ma scalato e ora deve portarselo appresso. Renzi è stato e tra pochi giorni tornerà a essere segretario di un partito che poco o nulla ha a che fare con quello fondato da Macron. Il PD è molto più simile al partito di Hollande, l'unico uscito con le ossa rotte dalle elezioni francesi. Vi segnalo poi la trascrizione di un discorso che Silvio Berlusconi tenne il 25 aprile, di un anno recente, ma del 2009, a Onna. Quello era l'anno del terremoto dell'Aquila, e secondo appunto la ragione per la quale questo discorso viene ripubblicato è perché quel discorso, secondo il giornale, con quel discorso Berlusconi unì il paese. Il suo discorso fu l'apice della pacificazione, come dicevamo, una pacificazione che poi non sempre si vede anche in questi giorni. Torno un attimo sul Sole 24 Ore, perché, come avete sentito anche nel GR, per chi volesse, soprattutto dopo la puntata di ieri di Report, che si è occupata principalmente del gruppo Sole 24 Ore, per chi volesse capire anche con i numeri che cosa sta succedendo al nostro gruppo e soprattutto a chi ci lavora, c'è il comunicato sindacale, è il terzo giorno che viene pubblicato in questo modo integrale, e tra l'altro è firmato sia dal CDR del Sole 24 Ore quotidiano, il sindacato interno, sia da quello di Radio Core e sia da quello di Radio 24, e si intitola "Dalla parte del sole, 8 anni di avvertimenti inascoltati". Quindi Report sicuramente ha detto molte cose vere, altre un pochino più imprecise, però qui nero su bianco vedete i numeri. E a questo proposito ringrazio anche tutti, a proposito di numeri, tutti gli ascoltatori che hanno mandato dei messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp. E volevo anche rispondere all'ascoltatore che mi chiede se mi piacciono le monografie del Foglio del lunedì. Sì, Pierluigi, assolutamente, trovo che siano sempre scritte bene, i personaggi scelti altrettanto bene. E, mi piace molto questo modo di fare un po' slow journalism, a volte appunto avere più spazio per raccontare delle belle storie. Andiamo sulle pagine interne dei quotidiani, torniamo sul Corriere della Sera, che ha forse l'approfondimento più lungo sulla questa questione a cui abbiamo accennato dell'incontro tra il premier Gentiloni e il presidente Trump. Marco Galluzzo riporta un virgolettato di Trump: "A Gentiloni ho detto di pagare e pagherà". Trump ricostruisce in un'intervista il colloquio con il premier sui contributi europei alla NATO. Tra l'altro si avvicina il vertice di Taormina di maggio, dove si terrà il G7, e c'è un vero e proprio caso sulla sicurezza, perché a Taormina le strade sono troppo strette per far passare le auto che normalmente Trump usa per muoversi. Ovviamente sono auto super blindate. Torniamo sulla questione dei vaccini. Purtroppo, come avete saputo, al di là della polemica della settimana della puntata di Report, non quella di ieri ma quella di lunedì scorso, sui dubbi avanzati sul ruolo che la farmacovigilanza ha nel vaccino antipapillomavirus, e c'è l'altra grande questione, che è quella dell'allarme contro i vaccini, soprattutto che vengono usati per i bambini, e in particolare quello, lo sapete, per il morbillo. E quindi c'è gli ennesimi dati impressionanti. In Italia cresce l'allarme morbillo, siamo secondi in Europa dopo la Romania, il 22% dei casi nell'ultimo anno. E a questo punto, oltre alle autorità sanitarie americane, che hanno spiegato ai viaggiatori che attenzione a venire in Italia, perché c'è appunto questo aumento dei casi di morbillo, e ora, adesso è arrivato anche un monito dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parte dell'ONU, che dice effettivamente in Italia in questo momento manca un'adeguata copertura vaccinale. E poi vi segnalo due storie di animali a pagina 21 del Corriere della Sera. Una è, la trovate su tanti giornali, mi ha molto colpito, è la storia di questo pappagallo che spesso correva sulla spalla di Michele Sartori, Michele Scarponi, il ciclista che è morto, come sapete, investito da un furgone sabato mattina nelle Marche, vicino al paese dove abitava, e c'era questo pappagallo, cui è anche stato dato il nome di Frankie, che appunto correva spesso sulla spalla del ciclista, si appoggiava spesso sulla spalla del ciclista, e che adesso, hanno notato molte persone, è appoggiato, è come se lo aspettasse su un cartello, che un cartello stradale, che è proprio all'incrocio dove Michele Scarponi è morto. Questo pappagallo non si muove da lì. Subito sotto, la storia raccontata da Francesco Battistini di un super cacciatore che organizzava, di origini olandesi, credo che organizzava, aveva una società che organizzava safari di caccia, si chiamava la SS Pro Safaris. Organizzava safari di caccia molto costosi, da 8.000 a 9.000 euro, a seconda della durata del safari e della quantità di animali che garantiva ai safaristi di poter uccidere. È stato ucciso da un coccodrillo. Scott, il super cacciatore dei safari, sbranato dai coccodrilli in Africa. E come era successo, forse lo ricorderete, quando è stato ucciso il leone Cecil da un dentista americano che aveva questo hobby di andare in Africa a uccidere animali, il web si è diviso. Molti hanno decretato semplicemente la fine di un bracconiere, e per altri invece era un paladino dell'ambiente. Sempre a proposito di animali, una bellissima storia ce la racconta Paola D'Amico, sempre sul Corriere. L'Accademia per Segugi è una scuola che c'è a Milano, gestita dalla polizia locale nostra di Milano, che forma cani antidroga che sono poi richiestissimi. 6 mesi di prova e test fra i pendolari. Al lavoro questi cani per 10 anni, poi la pensione, tra virgolette. Sappiamo che spesso vengono poi adottati magari dai loro compagni umani, dai poliziotti che hanno lavorato insieme per tanti anni. E vi dicevo l'intervista a Romano Prodi, che in effetti è, a volte mi correggo da sole, non ce n'è neppure bisogno, è di Mario Aiello. La trovate a pagina 5 del Messaggero, intitolata "L'Europa deve restare coerente, può vincere senza i partiti". Macron deve restare coerente, può vincere senza i partiti, perché sapete che una delle anomalie di questo grande successo di Emmanuel Macron al primo turno alle presidenziali francesi è che il suo partito En Marche è stato fondato di fatto quando lui ha iniziato la campagna elettorale, è uscito dal governo Hollande e ha iniziato la campagna elettorale, quindi non ha di fatto un partito dietro le spalle. Macro, il supplemento del Messaggero, dedica la copertina a quello che purtroppo viene definito, forse è la definizione giusta, un flop, cioè il tempo dei libri, la prima edizione di questa fiera dei libri che si è tenuta a Milano dal 19 al 23 di aprile. Sicuramente le aspettative erano molto alte, e in realtà poi i visitatori sono stati circa 70.000, cioè ricorda Macro, la metà del Salon du Livre di Parigi, il Salone del Libro di Parigi, un terzo della Buchmesse, che è il Salone del Libro di Francoforte, il più importante in Europa. Quali sono stati i problemi? A parte che forse qualcuno potrebbe anche dire, comunque 70.000 persone sono tante per la prima edizione, adesso io non lo so, però piacerebbe che qualcuno andasse a vedere quanti furono i visitatori della prima edizione del Salone del Libro. In ogni caso, appunto, bisognerà, secondo il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Federico Motta, cambiare alcune cose e soprattutto non metterla più come una rivalità tra Milano e Torino. Ci fermiamo un attimo per il... No, c'è Mauro? Oh, c'è Mauro! Una sorpresa, Mauro, scusa per il ritardo, non sapevamo se potevamo disturbarti, ma eccoti qua. E io del sole ho citato pochissime cose, quindi a te. Buongiorno Giulia, nessun disturbo, anzi ero qua appunto che leggevo del Sole 24 Ore, perché oggi è un giorno di festa, nel senso ovviamente che è il 25 aprile, quindi festeggiamo la liberazione, ma festeggiamo anche la comparsa della manovrina, perché finalmente è arrivata in Gazzetta Ufficiale la manovrina. E allora oggi, per festeggiare, con il Sole 24 Ore cominciamo una guida, che cosa c'è scritto dentro. Soprattutto cominciamo da questa sanatoria delle liti fiscali, sai che si potranno chiudere le liti fiscali, ci sono due pagine subito di guida immediata, la guida proseguirà tutta la settimana, quindi da oggi e fino a venerdì, i vari contenuti della manovrina. Oh, ti segnalo quanto l'IVA sia protagonista, non so se tu già hai avuto modo di apprezzare questo protagonismo dell'IVA, forse ti è sfuggito qualcosa, ecco, allora mi permetto di consigliartelo, perché da subito c'è la stretta sulle detrazioni IVA, ne parliamo naturalmente nelle pagine Norme e Tributi, e soprattutto, come hai letto già dal Sole 24 Ore da domenica, c'è questo lavorio per ridurre i possibili aumenti derivanti dalla clausola di salvaguardia, ma questo si vedrà. Invece immediato la stretta sulle detrazioni IVA, e subito si prepara anche la modifica per il cosiddetto split payment, che tu ben conosci, o scissione dei pagamenti. Ti assicuro che sono tutte cosucce di una rilevante portata, per le quali ti consiglio una lettura attenta di Norme e Tributi. Rapidissimamente ti consiglierei anche, mi permetto di consigliarti, che la Cassazione ha decretato lo stop al referendum su voucher e appalti. Ufficialmente non ci sarà il referendum, lo riferiamo oggi sul Sole 24 Ore. E poi, che succederà dall'Italia? Proviamo a spiegarlo nella pagina dedicata appunto al voto che si è concluso ieri, perché c'è questa procedura di amministrazione controllata. Alessandro Galimberti ripercorre quello che potrebbe essere l'immediato futuro di Alitalia. Naturalmente, cara Giulia, cari ascoltatori, oggi è martedì, condominio, è 25 aprile, ma esattamente, che piacere trovare una persona preparata. Condominio, sì, parliamo tra le altre cose dell'obbligo per l'amministratore di avere il conto corrente, non può derogare, deve esserci conto corrente di condominio, e poi anche di casi, ad esempio, di ex coniugi per cui ci si ritrova a pagare le spese condominiali anche se si è ex e non si abita più lì, ma è tutto spiegato nella pagina di condominio. Molto altro ti vorrei dire e consigliare, ma il tempo è tiranno, e allora a questo punto, cara Giulia, cari ascoltatori, traffico! In primo piano. Rieccoci ancora, buon martedì e buon 25 aprile da Giulia Crivelli. Devo fare una precisazione a un messaggio che è arrivato al SMS, un ascoltatore che non si firma e dice: che coraggio accusare Report di divulgare notizie non precise da una società che ha taroccato i dati di diffusione del suo giornale. Questo è importantissimo e ci tocca a me, tocca a tutti i nostri colleghi di Radio 24, i colleghi di Radio Cor, Carmelo Lauricella in regia. noi giornalisti e lavoratori non abbiamo taroccato alcun dato di diffusione, questo deve essere chiarissimo, e quindi mi riservo il diritto, tra l'altro ammesso e non concesso che abbia detto che Report ha divulgato notizie non precise, mi riservo il diritto di criticare altri giornalisti. Voglio, mi fa piacere, lo sapete, lo ripeto sempre, essere criticata per il mio lavoro di giornalista. Questo non c'entra nulla con le responsabilità, ancora tutte in fase di accertamento, di chi appunto ha guidato questa società, non chi ha scritto su questo giornale, chi ha parlato da questi microfoni o ha lavorato per fare il più onestamente possibile, con tutti i nostri limiti, il lavoro di giornalista. Questa era veramente una precisazione dovuta, è una questione anche proprio di dignità, perché come credo la maggior parte degli ascoltatori possono immaginare, questi per noi sono, per noi che lavoriamo al Sole 24 Ore, sono momenti molto difficili. Cerchiamo lo stesso di fare bene il nostro lavoro con queste notizie però che arrivano sul futuro dell'azienda per la quale lavoriamo. Detto questo, torniamo alle pagine interne dei giornali e vi segnalo l'approfondimento un approfondimento abbastanza divertente sul cibo che verrà, lo trovate a pagina 19 del giornale. Andrea Cuomo ci racconta che cosa ci sarà nel carrello del 2020. È abbastanza comune, insomma, quando si frequentano i supermercati vedere che spuntano sempre nuovi cibi. La ricerca non si ferma neanche lì, soprattutto naturalmente nell'industria alimentare. E allora, per esempio, dal balsamico grattugiabile, l'aceto balsamico grattugiabile, al sale spray. L'olio spray esiste già, in realtà è semplicemente olio messo in una bottiglia dalla quale si può spruzzare. Gli integratori, il caffè verde che si bevrà anche per dimagrire, e attenzione, il succo di cozze per valorizzare uno scarto. Vi segnalo poi invece, a proposito di sanità, argomento serissimo, un'inchiesta di Maria Sorbi sul giornale: quanto vale l'oro rosso. L'oro rosso, il sangue prelevato in Italia è un business da 1 miliardo di euro, gestito da regioni e associazioni. Anche qui non è il problema che abbia un costo gestire appunto i rifornimenti di sangue, le trasfusioni, bisogna vedere se è tutto trasparente, esattamente come la questione della farmacovigilanza sui vaccini antipapillomavirus. Vi segnalo dall'Avvenire un interessante approfondimento sulla demografia, sulla situazione demografica in Germania. Sappiamo che in Italia e in Giappone è drammatico, abbiamo una crescita negativa, ma anche la Germania, ci racconta Massimo Calvi, fa i conti con l'età che avanza. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha detto che a causa di questi effetti demografici, cioè che si fanno meno figli in Germania, la crescita potenziale della Germania, che è la principale economia tedesca, sarà azzoppata dal 2021. Nonostante le forti spese per la famiglia, il tasso di natalità risale lento. In 16 anni il paese, secondo le previsioni, perderà 15 milioni di abitanti. Vi segnalo poi dalla Verità un'intervista non a Marine Le Pen, ma a Marion Le Pen, che è la nipote di Marine. Ha solo 27 anni, si era parlato di lei molto durante la campagna elettorale, poi un po' meno perché naturalmente i riflettori sono andati alla presidente del Front National, Marine, che è ora la Marion, che è così diventata la più giovane deputata è la più giovane deputata della storia della Francia. Poi in giugno vedremo se verrà rieletta. In giugno, sapete, si rinnova l'intero Parlamento francese e ribadisce: siamo l'unica speranza dei veri francesi. Il Front National è il primo partito in 48 dipartimenti, quelli in cui è suddivisa la Francia, e 20.000 municipi. La parte profonda e produttiva della nazione, dice Marion, sta con noi. Fillon ha subito chiesto ai suoi di sostenere Macron, il candidato, sapete, repubblicano, appunto, ha fatto questa dichiarazione subito dopo i risultati. Il popolo di centrodestra è sbalordito, in molti ci daranno il voto. Vi segnalo, a proposito di sanità, un paragone, anche se volete, una notizia che viene dal Regno Unito e che ci fa capire che i sistemi sanitari nazionali hanno tutti dei problemi di costi. Sono in tutti i paesi occidentali la prima voce di spesa di un bilancio dello Stato, e quindi si cerca anche magari non necessariamente di tagliare, ma di razionalizzare la spesa. E così scopriamo che le liste d'attesa della sanità inglese puniscono gli obesi e i fumatori, messi in coda e costretti a cambiare stile di vita prima di subire interventi non urgenti. E questo mi richiama anche a un'altra notizia di qualche mese fa, sempre dal Regno Unito, sempre sul sistema sanitario nazionale. Pensate, alcuni farmaci antitumorali, che sapete sono carissimi, non vengono dati in alcuni casi agli ultra settantenni, come dire, sei già vecchio, quindi tutto sommato se dobbiamo spendere preferiamo spendere per qualcuno che, se guarisce, ha una aspettativa di vita più lunga di te. Una cosa crudelissima, se ci pensate. La verità è anche un approfondimento su il grande flop, però vi segnalo anche, perché ci tocca così da vicino qui da noi a Radio 24, che La Verità riprende l'iniziativa di cui si è parlato anche qui, lo ha fatto Alessandro Milani, il marito di Francesca Del Rosso, la nostra collega morta per un tumore, e adesso è stato organizzato e prende il via un concorso letterario a cui possono partecipare tutti i libri già pubblicati che hanno come tema la resilienza. Ultimissima segnalazione sulla... Ieri, prima, per un lapsus ho detto che la moglie di Macron è più giovane di lui, in realtà ha 24 anni più di lui. Sul Fatto Quotidiano c'è un po' questo paradosso: da una parte una vignetta così, no, vabbè, una vignetta dove c'è un omino che dice Macron sta con una vecchia. E questa sarebbe l'analisi politica italiana sul voto francese, quindi c'è dell'ironia, però io lo trovo comunque di cattivissimo gusto come vignetta, anche perché alla pagina successiva Selvaggia Lucarelli ci ricorda che Brigitte ha 24 anni più del marito e ne parlano tutti, Melania ha 24 anni meno di Trump e praticamente non ne parla nessuno, 64 anni senza Botox, Brigitte è la rivolta contro tutti i cliché. Questo è l'articolo di Selvaggia Lucarelli. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon martedì a tutti, ma proprio tutti gli ascoltatori, e un caro saluto da Giulia Crivelli. Buona festa della Liberazione.